Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. È stato pubblicato, come ogni anno, il nuovo rapporto ICT Rate curato da Forum PA. Si tratta della più completa analisi svolta in Italia per tentare di fotografare il processo di innovazione delle città secondo i profili della mobilità, della legalità, dell'ambiente, dell'economia, del capitale sociale, della governance e della qualità della vita. Profili che a loro volta nascono insomma dall'analisi di oltre un centinaio di parametri. Ne cito qualcuno solo per capirsi, allora cito diciamo quelli introdotti proprio quest'anno, parametri nuovi come la diffusione di FabLab, la diffusione dell'e-commerce, del co-working, del bike sharing, della capacità di accoglienza dei migranti, dell'uso dei pagamenti elettronici nella pubblica amministrazione. Ce ne sono molti altri. E allora vediamo quali sono i principali trend che emergono dal rapporto di quest'anno, come sempre con l'aiuto di Gianni Dominici, direttore di Forum PA. Buonasera Dominici. Buonasera e buonasera a tutti gli ascoltatori. Senta, allora, visto che è una classifica quella che fate, partiamo dalle 10 posizioni di testa. Sì, abbiamo conferme ma anche novità, new entry. Allora, prima di tutto possiamo dire che Milano rimane bella salda in posizione, era prima lo scorso anno ed è prima anche quest'anno. Al secondo posto troviamo Bologna, anche questa è una conferma. Sì. Cambia qualcosa invece dal terzo posto un po', Venezia, che prima era quinta. Che è risalita, Firenze che invece ha perso una posizione. Ma poi arrivano anche le piccole città, le piccole capitali come le chiamiamo noi. Sì. Arriva al quinto posto Padova, che lo scorso anno era Torino. Poi velocemente le successive? Un nuovo new entry, velocemente, è Torino che da undicesima passa a testa, seguita da Parma, Trento, Modena e Ravenna. Quindi 5 aree metropolitane e 5 città intermedie. Dunque Dominici, un primo punto su cui voi mettete l'accento è questa dicotomia sempre più evidente tra le due capitali italiane, diciamo così, Roma e Milano. Eh sì, Roma e Milano, le due città che ci rappresentano, che in questo momento rappresentano le due anime del paese. Milano sempre più internazionale, quindi salda al primo posto, e invece Roma bloccata da due anni al ventunesimo posto. Salda al ventunesimo, diciamo così. Salda, sì, più che salda proprio bloccata al ventunesimo posto. Sì, le due città in questo momento rappresentano, dicevo, le due anime del paese. Milano, io in questo momento mi sento di descriverla come una città a colori, una città vivace, una città che sta contagiando anche il territorio con progetti innovativi. Roma invece, lo sappiamo, purtroppo è cronica di tutti i giorni, è una città che sta ricercando se stessa e in questo momento ancora non si è trovata. Bloccata sempre intorno agli stessi problemi, si parla sempre di come uscire dal passato più di come purtroppo no, affrontare il futuro. Condividere un futuro, condividere un progetto di futuro, questo ancora manca. Ecco, un altro segno che voi considerate importante invece arriva dal... così dal modo in cui si sta muovendo il nord del paese, soprattutto il nord-est, quelle città anche piccole, per così dire, che però sono molto competitive. Ma sì, nel nord si è per fortuna finalmente creata quella saldatura fra grandi città, quindi per poli metropolitani, che sono quelli che abbiamo visto prima in classifica, e le città intermedie. Noi notiamo che finalmente, dopo tanto tempo, si può cominciare a dire che l'Italia delle eccellenze ha cominciato a fare sistema, che è esattamente invece in negativo quello che si parla in negativo spesso dell'Italia, no? Un paese dove non si fa sistema. Sì, ecco, io posso dire che in questo momento vediamo dei segnali per cui tra le grandi aree metropolitane si è creato questo tessuto connettivo di città intermedie, che non sono solo città di provincia dove si vive meglio, ma città che producono e città che competono. Ecco, veniamo invece, diciamo, al sud Italia. Che cosa sta succedendo? Beh, se vediamo le mappe, ahimè, dal punto di vista statico, l'Italia è ancora divisa come minimo in due. La due prima colori. Città del sud è Cagliari, del 54esimo posto su 105 circa posti, no? Esattamente, quindi diciamo, l'Italia è divisa in due. C'è la divisione. Però si sta muovendo qualcosa. Cagliari, che è la prima città del sud, lo scorso anno era 60esima, quest'anno è 54esima. E sono diverse le città del sud che hanno fatto un salto in avanti, ma è importante. Città come Lecce, Siracusa, Cagliari, quindi appunto che dicevo, si stanno muovendo. Quindi il sud si muove. La distanza ovviamente non si può colmare in un anno. L'importante è che però è un'inversione di tendenza. Ecco, c'è anche un approccio tipico di queste città del sud e anche dei casi migliori di governance delle città del sud. Purtroppo non dappertutto la governance è brillante, no? C'è un dettaglio, un aspetto però importante. Sì, è importante perché quello che noi abbiamo notato, abbiamo registrato, è appunto questo investimento sul capitale sociale. Sì. Cioè il Sud sta reinvestendo su se stesso e ci sta credendo e ci sta riuscendo. Cito ad esempio il progetto Legge Social Innovation, quindi a Lecce c'è un progetto finalizzato proprio a portare innovazione sociale tra i giovani e trasformare questo in progettualità, in imprenditorialità. Oppure a Cagliari c'è un bel progetto sulle pari opportunità e quindi anche creando una nuova cultura di parità di genere. E così a Matera abbiamo invece dei progetti legati al green, alle energie verdi. Quindi dal sud stanno partendo nuove forme di reazione alla crisi. Va bene, grazie. Grazie Gianni Domenici, ci risentiamo senz'altro l'anno prossimo, magari anche prima. Grazie a voi e a presto. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.